È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde! La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Cari ascoltatori, non è la prima volta che Grillo si esprime come si è espresso oggi dal suo blog. Quello che vi abbiamo fatto ascoltare è l'invito alla rivolta verso poliziotti e carabinieri che non devono più proteggere i politici. Era maggio scorso, dunque non è la prima volta, cari commentatori, che siete così scandalizzati dall'invito di Grillo a fare cosa? Dall'invito di Grillo a non proteggere più i palazzi del potere. Questo ha detto Grillo oggi, e dunque sostanzialmente ad incitare i delinquenti ad entrare a Camera, Senato, Regioni, prefetture, comuni, eccetera, eccetera. Questo ha fatto Grillo, ha di fatto invitato i delinquenti a entrare. Via libera, senza polizia. Maggio scorso. Spero nella forza pubblica, nei carabinieri, nella Digos, nella polizia, che sono cittadini come noi, con gli stessi problemi nostri. Io spero che capiscano che un ordine dall'alto, se un ordine sbagliato, si può anche trasgredire un ordine. E spero che un giorno si decideranno a voltarsi dalla parte giusta. Chiedo di non proteggere più questa classe politica che ha portato l'Italia allo sfacelo, di non scortarli con le loro macchine blu al supermercato, di non schierarsi davanti ai palazzi del potere infangati dalla corruzione e dal malaffare. Le forze dell'ordine non meritano un ruolo così degradante. Gli italiani sono dalla vostra parte, unitevi a loro. Nelle prossime manifestazioni ordinate ai vostri ragazzi di togliersi il casco e di fraternizzare con i cittadini. Sarà un segnale rivoluzionario, pacifico, estremo, e l'Italia cambierà. In alto i cuori. Polizia e alla Digos, che non devono obbedire a qualsiasi ordine, perché quando una legge è sbagliata ha il dovere di non accettarla, perché se fanno una legge domani mattina su una legge razziale, cosa facciamo? Diventiamo tutti razzisti perché siamo a norma di legge? Allora dico alla polizia, per una volta disobbedite, per una volta, e giratevi una volta dalla parte giusta. Ma in qualche modo. Cosa dice in sostanza? Unitevi al popolo, abbandonate i politici. Allora qualcuno propone... Personaggio pericoloso ormai, sconcertante. Qualcuno propone l'istigazione a delinquere direttamente, certo. No? Beh, certo. Muovetevi procure, qualcuno certo. Dice. A me non piace chiamare in causa le procure. Chiamate non piace un'ambulanza mai. Allora. Ah, tu proponi ormai l'ambulanza. Tu ma proponi... trattamento, un'ambulanza, non è che siccome l'ha già detto... Attenzione, allora Parenzo dice trattamento tutto. Sanitario obbligatorio per Grillo, diciamolo sì. Chiaro. Ma quella violenza di cui parli tanto ce l'abbiamo dentro, si vende nei negozi della città. Io dico solo una cosa a Grillo, amico mio, Sarà pure una provocazione, va benissimo, per carità. Sì, tutto una provocazione. Ma invitare la polizia. Anche i fucili di Bossi erano una provocazione. Invitare i fucili di Bossi, ti ricordi o no? Sì, certo, me lo ricordo. Invitare, ma sì, è tutta una provocazione. Invitare la polizia a lasciare campo libero. Perché se tu lasci le istituzioni, il Parlamento, che saranno anche sputtanati, va benissimo, ma se tu li lasci liberi, all'orda di teppisti, che esiste, perché esiste l'orda di teppisti, non è che non esiste. Oh, ieri sera ci siamo un po' esposti, come nostro solito, perché non ci tiriamo indietro, e abbiamo detto che quel gesto dei poliziotti era un gesto per fine turno, insomma, che non era di solidarietà. Io qualche dubbio lo avevo, timido. No, no, no, ma io rimango della stessa opinione, avendo sentito diverse testimonianze. Ci sono varie cose. C'è un poliziotto, uno di quelli che era lì, tra quelli che si sono tolti il casco, il quale dice ce l'hanno detto dall'alto. Dunque, sicuramente, secondo lui, non è un gesto spontaneo. Quindi è stato un gesto spontaneo, ma che succede sempre. Una volta cessato il pericolo, il funzionario, che è l'unico titolare del servizio, ha dato a disposizione di togliere il casco perché non c'era più pericolo. Ma di che stiamo parlando? E un funzionario ha detto non c'è più pericolo, togliamo il casco. Solidarietà. C'è un piccolo caso, piccolo giallo, come in tutte le cose in Italia, ma non è che si sono tolti il casco per abbracciare i manifestanti e dire avete ragione voi, dobbiamo metterlo in quel posto ai politici. Non è andata proprio così. Non è andata così. No, anche semplicemente solo per alleviare la tensione di una piazza che esplodeva, poteva essere anche quello. Giochiamo rabbia, violenza. Ma vogliamo riprendere le frasi pronunciate ieri da Pippo Baudo, dal Pippo nazionale nei confronti di Grillo, frasi che stanno facendo discutere qui alla Zanzara da parte di Baudo, del Baudo nazionale, il quale dice esplicitamente che Grillo ha una venatura fascistoide, si riferisce al caso dei giornalisti messi all'indice, almeno così dicono tutti, dice la stampa ufficiale, diciamo. No, Grillo che mette all'indice i giornalisti, per me non è così, l'ho già detto, ma in ogni caso Baudo sostiene che Grillo ha una venatura fascistoide. Ma Grillo, quando fa queste cose, non si dimostra un po' fascistoide, secondo te? Purtroppo nasce un pensiero brutto, nasce. Cioè qual è il pensiero brutto? Scusa. È quello che hai detto tu. Cioè che un po' abbia qualche tendenza fascistoide. Penso, qualche venatura un po'. Un po'? Un po' fascistoide, dici tu? Insomma, un po' c'è. No, ma non... Vabbè. Speriamo che sia soltanto un'impressione. Speriamo. Un po' c'è la venatura fascistoide, signor Baudo. Il tuo amico Chiavegato, il Veneto, quello della Life, quello sull'indipendenza del Veneto, cos'è? Tutti ormai sono questi liberi qua. Imprenditori federalisti europei, storico movimento Chiavegato, che dice i poliziotti devono andare ad arrestare i politici. Sembra bella come cosa, perché uno quando dice queste cose, ma che cosa meravigliosa, i poliziotti devono arrestare i politici. Poi dice, ma chi? Come? Così quando? Caso, perché? C'è un politico dentro, via. Cominciate a far scendere in campo le forze dell'ordine per arrestare tutti i politici corrotti e malavitosi che ci sono nel Parlamento. Cominciate a fare questo. Chi è che gli ha detto che è uno slogan? È tornato Zampa! È tornato dopo una visitina in ospedale. Noi speriamo naturalmente che non sia successo nulla di grave. È tornato ieri a Piazza Pulita. Zampa! Ci avete rotto le palle al modo suo. Ci vuole la maggioranza dell'Italia futura, non di queste fregnacce! Di queste fregnacce, di chi vota la legge elettorale, a noi degli italiani non ce ne frega niente. Dovete far ripartire il paese. Ho capito, ma ci vuole una maggioranza per votare. Ma parlatene voi in un altro consesso. Ci avete rotto le palle. Allora. Ci avete rotto le palle con queste storie qua. Però effettivamente la legge elettorale non è un argomento proprio appassionante. In questo caso ha ragione il signor Zampa. Però che non è Sandra Zampa, non è Sandra Zampa, ma Zamparini. È Zamparini. Allora, siamo qui con Franco Maccari. Buonasera, Maccari. Buonasera a voi. Non si sente niente, Maccari, non si metta in viva voce. Non si metta in viva voce. Vabbè, ma non si sente niente, ragazzi. Su, mettetevi bene sto collegamento, se no mi incazzo, vogliamo dire qualcosa su questo Masocco che ieri è intervenuto alla Zanzara? Beh ragazzi, Masocco, consigliere comunale, per carità, sarà un pesce piccolo, ex leghista, consigliere comunale a Cantù, ex assessore, il quale già una volta aveva detto in occasione della visita della Chienghe a Cantù che vabbè, meno male che non gli è arrivata una noce di cocca in testa ma solo delle banane, perché qualcuno aveva tirato delle banane alla Chienghe, no? Stavolta è andato oltre il signor Masocco, consigliere comunale comunque di un paese importante della Brianza, Cantù. Paese operoso, paese importante, paese di gente civile, di gente per bene. Quale, non ma... chi lo ha eletto però. Ma no, chi l'ha eletto che c'entra? Questo Masocco si dimostra che c'entra? In se tu voti uno che dice queste cose qui, tanto civile non sei evidentemente. Ah, ma tu stai trasferendo, l'inciviltà delle frasi di Masocco a quelli che l'hanno votato. Beh tesoro mio, tu sei quel che mangi, dai. No? No, tu non sei quello che voti, ti sbagli. Tu sei anche quel che voti. Beh, io non lo voterei mai uno così. No, no. Se ti piace così, io uno così non lo voterei mai. Ma che c'entra? Io mi rispecchio anche in chi Ma ti stai sbagliando, ti sbagli, in questo. Allora, tutti quelli che hanno votato Berlusconi sono in parte delinquenti, non ho capito. No, questo non vale. E allora come no? Chi dice delle cose come quello, non dire stupidaggini, dai. Chi avalla vuol dire che è d'accordo con quel pensiero o no? Masocco, banane alla Chienghe, ne faccia l'uso che fa Cicciolina, una vergogna. Una banana non fa male, anzi può servire a molti usi. Invece la noce di cocco, sai, se ti lanciavano quella poteva anche farti male. Beh, ho capito, però cioè deve essere contenta che si prende le banane, le banane addosso. Ma le banane, figa, hanno il potassio, hanno un sacco di cose che ti danno energia, no? Ma dai, ma possono essere usate in vari modi. In che modo, scusa? Non lo so, la cicciolina ne sa qualcosa. Ma la festa è nostra e noi decidiamo. Dopo il traffico, speriamo uno dei capi dei sindacati di polizia. La zanzara capricciosa, la zanzara. Franco Maccari è il segretario generale del COISP, sindacato indipendente di polizia. Maccari. Salve, buongiorno. Eccoci qui. Allora, lei... Sì, si sente bene. Maccari, come interpreta questo gesto? Perché allora ci sono delle versioni più discordanti su questa cosa. L'hanno fatto spontaneamente o è semplicemente un ordine venuto dall'alto? Diciamo una volta per tutte le cose come stanno. No, mi viene da ridere perché veramente una montatura così è difficile vederla. Cioè? È una, una sciocchezza. Guardi, quel casco pesa un chilo e mezzo. Noi non è che lo teniamo in testa per 8 ore, 10 ore. Lo teniamo in testa quando ci sono le condizioni. Semplicemente qualcuno ha detto potete toglierlo, ma è normale. Cioè non c'è nessuna solidarietà nei confronti dei manifestanti, dice lei. Chiariamoci. Molte volte noi vorremmo passare di là, altro che fare servizio. Che vuol dire molte volte vorreste passare di là? Perché siamo cittadini, mica viviamo in un mondo a parte, ectoplasmi, abbiamo figli che vanno a scuola, abbiamo tutte le esigenze di qualsiasi tipo. Scusi, ma quando lei dice voi, quando lei dice, stai zitto un attimo, quando lei dice voi, che intende? Non ho capito. No, non ho detto voi, ho detto qua la gente. No, voi nel senso, voi, cioè quelli che lei conosce, i suoi uomini, diciamo, i suoi. Se permette, noi ci lavoriamo su questo campo, è purtroppo l'argomento di tutti i giorni, l'ordine pubblico. Cioè, voi lei pensa davvero che quando c'è una manifestazione degli amici della SLA che protestano perché hanno tagliato i fondi salvavita, non vorremmo andare dall'altra parte a manifestare con loro? Cioè, voi col cuore state con i forconi? No, non ho detto, lei non mi può tirare. No, le faccio una domanda. Molte volte ci sono motivazioni che ci vorrebbero. Ma che cosa le ho detto io? Che cosa le ho chiesto? La domanda è questa, voi col cuore. In questo caso siamo molto incazzati anche noi, abbiamo fatto una manifestazione la settimana scorsa, nessuno ci ha considerato, insomma, questo è un altro paio di voi domande. Fate le manifestazioni anche sulla vicenda Aldrovandi, bisogna dire. Cioè, anche per... c'entra, l'abbiamo fatta per un motivo specifico, se vogliamo parlare di quello. No, lei l'ha fatta per difendere i poliziotti dalle condanne nella per difendere un'applicazione della legge di storta che è stata fatta solo a noi. Vabbè, per difendere i poliziotti condannati per la vicenda Aldrovandi, ma vabbè, legittimo. Ognuno ha le proprie idee. Ma certo, è legittimo manifestare per questa cosa qua, non sto dicendo che non va bene. Le manifestazioni in Italia, secondo me, dovrebbero essere molte, ma molte di più, forse per 20 anni non sono state fatte. Addirittura. Ma lei vuole sempre gettare i lacrimogeni dentro il Parlamento? Qualche volta che avrebbe la rabbia, ma questo non significa che si fa. No, però lei verrebbe l'istinto di buttare il lacrimogeno dentro il Parlamento, dice lei. Guardi, non, se vuole uso un linguaggio molto, molto più chiaro, se ha le palle come fumano in, questi, in certi momenti per vedere che ci tagliano costantemente i mezzi per dare la difesa ai cittadini, e dunque... non parlo come sente del mio stipendio, parlo di mezzi per operare. No, ma no, ho capito benissimo. Condivide l'appello di Grillo. Dunque, qualche volta, perché una volta lei lo disse, qualche volta viene la tentazione, i lacrimogeni, invece di puntarli contro la folla, ovviamente poi li si usa quando è necessario, sì, di girarli sì, dall'altra parte. Lei ha buona memoria, ma era un caso specifico perché si andava a mangiare al ristorante del Senato sì, con 2,70 euro. E dunque? Quando noi mangiamo i panini. Certo, no, ma lo ricordo bene, certo. Ma ecco, oggi viene... verrebbe voglia di tirarli, certamente. Certo, sì, anche oggi verrebbe voglia di tirarli. Senta, io voglio... non ho detto che lo facciamo. Attenzione, no, mai, ma è chiaro. Sembra che io sono un grillino, anzi, le posso dire che ho appena fatto un comunicato contro le dichiarazioni di Grillo. Che... Sì, a proposito, a proposito, è questo che le voglio chiedere. Sì. Grillo dice toglietevi oppure dai palazzi del potere, andate via, solidarizzate con noi. Cosa vuol dire questo qua? Guardi, molti hanno il cervello come un flipper, secondo me. Cioè Grillo che cos'è? Il cervello alla mano, il cervello ormai sputtanato? Un neurone che gira, gira impazzito. Ma quando si fanno queste frasi a effetto che raccolgono anche il consenso della base più sì, bassa, sono populismo di bassa lega e ci mettono poi in una grande difficoltà, perché poi sul terreno, quando noi ci sono con le manifestazioni che facciamo di tutto per evitare che magari si creino incidenti o altro, anche facendo cose un po' strane, la gente pretende che noi ci giriamo, ci togliamo, altro che casco, anche le divise, che spariamo. Cioè questo qua, noi dobbiamo chiarire, cioè, ognuno fa il suo ruolo. Noi, appunto. Noi abbiamo un ruolo che... Cioè lo dica chiaro a Grillo, una volta lei è stato ospite anche del suo blog, lo dica a Grillo, sì, noi non ci toglieremo... Dai palazzi del potere, dalla difesa, noi continueremo a difendere i palazzi del potere. Ma i palazzi del potere sono la democrazia. Ma certo, appunto. E beh, noi lei... lo continueremo a fare fino all'ultimo questa cosa. E se mi consente, i nostri seduti dimostrano proprio questo, insomma, anche, no? Non è che perdono la vita andando a giocare, ma perdono la vita per lavorare, per difendere i vari ruoli. Mm. Istituzioni, cittadini, passanti. Parenzo, no, però Maccari, voglio capire una cosa. Lei mi ha detto, ci hanno detto di togliere i caschi, ma non può essere che chi ha dato... No, lui ha detto che i caschi pesano, quando ci sono le condizioni hanno dato danno ordine di toglierli, ma non può essere... Ma questa cosa è inventata. A Torino, mentre c'era un gruppo che si toglieva i caschi perché non c'era assolutamente nulla, in un'altra parte della città si facevano le cariche contro i manifestanti perché stavano cercando di assalire il palazzo, voglio dire, e si portava altro che il casco, le lacrimogene. Ma allora perché altri sindacalisti dicono il contrario, scusi? Altri suoi colleghi? Dico, sì, è vero, perché mica siamo perché? Tutti della stessa idea, no? Perché inventa, ho capito, diversi, però qui non è che stiamo parlando di una cosa bubù, stiamo parlando di una cosa... I miei uomini ce li avevo lì, quindi io posso parlare con quelli... Senta, ma è vero che sono stati tagliati anche i viveri ai cani? No, questa è una battuta che faccio sempre io per far capire che quanto idioti siano certi provvedimenti. Quando tagliano il 10%... No, ma è vero che i cani della polizia... Spiego al volo, sono io che l'ho lanciato questa provocazione, che non è una provocazione. Quando tagliano tutti i capitoli, stavo dicendo del 10%, vanno tagliati tutti, anche il capitolo, per esempio, destinato al viveraggio dei cani. E ho detto, io quando fanno questi tagli, la prossima volta vado dal cane e gli dico, sappi che da oggi mandi 10% in meno. Ma c'è un problema di questo tipo anche su vivere i cani dei poliziotti o no? Sarà, forse. 10% in meno, ma sa chi si riverbera poi questa cosa? A chi? Chiaramente. A chi? Al povero negoziante che ci dà da mangiare per i cani, che continuerà a darci da mangiare come al solito. Senta, ma e quanti... il pagamento dopo 3 anni... Secondo lei, quanti poliziotti hanno votato per Grillo, così, a una percentuale, me lo dica? Per la rabbia? Sì, no, per la rabbia, no, per qualsiasi motivo. Quanti, che ne so, 50%, 60%, meno? No, non credo, mi auguro meno. Certamente. Quanti? Secondo lei? 20%. 20% di poliziotti. Un attimo, giornale radio, poi la richiamo, 800-24-00-24. A tra poco, la zanzara inizia così, forconi maledetti. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba molto spesso tu si corica, non voglio farti fretta, ma troppo inizia la festa. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Sei ancora a casa, Simo? Caro Presidente Zamparini, io capisco che uno si possa commuovere per delle scene che in realtà non esistono, però addirittura commuoversi perché i poliziotti solidarizzano con i forconi. Poi soprattutto a Torino dove c'erano mischiati insieme degli ultra, dei poco di buono, dei delinquenti che hanno tirato i porfidi. Questa ultima scena mi ha commosso, questa è l'Italia che ci vogliamo tutto bene, cioè i poliziotti che ci stringevano la mano con quelli che si levano il casco, che no? Si levano il casco, mi ha commosso a vederla. Questo è l'inizio del nuovo percorso di questo paese, questo è un segnale importantissimo, oltre a quello di Renzi, questo di oggi, un segnale importante, il paese non ne può più, le forze dell'ordine non ne possono più neanche loro. Mamma mia, caro Zamparini. Zamparini ha un'anima, poveretto. No, ma una cosa importante, non è successo un cazzo, non è successo nulla, niente. Dei poliziotti che si sono tolti il casco, qualcuno dice sì, solidarizziamo anche noi, ma ci può essere il rischio di una rivolta, anche di disobbedienza, anche noi siamo oppressi dalle tasse. Ma sì, certamente anche i poliziotti. Se anche uno o due lo hanno fatto, diventa un gesto, come ma dire, quale che gesto? Assume un valore. Ma ce lo siamo scordati tutti dopo domani, non è successo nulla, ma smettiamola. Gli applausi. No, comunque la cosa vera sono stati gli applausi delle persone. Dai. È cominciata la zanzara, 800 24 00 24, titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. I leader del mondo per l'addio a Mandela, Obama un gigante della storia, stretta di mano con Raul Castro, fischi per il presidente sudafricano. Napolitano basta con il frastuono di polemiche dannatamente elettorali, le elezioni non sono vicine, è inutile evocarle, usciamo dal clima negativo. Renzi preme, legge elettorale al primo punto, la discussione in Senato o alla Camera, braccio di ferro nella maggioranza, Alfano ospite al TG3. D'Alema, io resto fuori e non faccio correnti, avanti un'altra generazione, lo stile Renzi, riunione della nuova segreteria alle 7 di mattina. Nuovi presidi di tir e forconi, tensione a Torino, ma in forza la marcia su Roma. Grillo alla polizia, non proteggete i politici, unitevi alla protesta. Per l'economia segni di risveglio, si ferma la caduta del PIL, ma la recessione non è finita. Saccomanni, per il lavoro la situazione resta grave. In Italia 1 milione di bambini vive in povertà assoluta, per loro solo 11 euro al mese. La drammatica fotografia nel rapporto Save the Children. Conferme, ancora conferme, cari amici, sta per partire il sito Forza Dudu. Ma di chi è il marchio? Beh, il marchio da quello che ci ha riferito lui, eh. Ieri sera in questa storica litigata con David Parenzo, no, cioè con te. Non posso litigare col nulla, non c'è niente da litigare. Guarda che ti vuole portare in tribunale, eh. Ma per che cosa? Dice che ha già mobilitato i suoi avvocati. Ha già pronto la querela. Bene, bene. Pronto bene. La querela perché tu hai detto che vive di espedienti. Che è un espediente quello di depositare dei marchi. No, tu hai detto marchi. Non si può vivere di espedienti. Sì, adesso è inutile che mi fai la zanzara a me. Lo so cosa ho detto. Ho detto che è un espediente quello di depositare marchi di ogni cosa. La Repubblica.it, depositato io. E il Gabinetto, depositato io. Forza Italia, l'ho depositato. E questo lui ha fatto. Ha depositato dei marchi. E Volpe Pasini, ho registrato il sito forzadudu.it. E dai, esattamente nel momento in cui Berlusconi diceva quella roba lì. È un espediente o no? Non lo so, è un espediente. Ma diciamo che fa il suo, fa il suo. E dov'è il crimine di aver detto che è un espediente? No, tu hai detto anche vive di espediente. Comunque, beh, che uno che registra marchi è un espediente. Vabbè, è uno dei tanti. Hai detto modi che vive di espediente. Vabbè, ma te la vedrai in tribunale con Volpe, dai. Ieri, quando il presidente ha interrompendo Fiori, ha fatto una battuta dicendo che si poteva andare sul web a vedere il sito di Forza Dudu, allora io immediatamente, come faccio sempre, l'ho registrato ed è ed è a sua disposizione come sempre, in maniera tale che non lo facesse qualcun altro. Oh, ci si è messo anche il direttore del TG5, Clemente J. Mimun, che dice: io sono un buon amico di Dudu. Vabbè, anche lui ha un cane più grande, ovviamente, di Dudu, che porta a passeggio sulle spiagge di Sabaudia di solito. Clemente J. dice: io sono un buon amico di Dudu. Adesso va bene tutto, Ma no, lui o il suo cane? No, no, lui. Ah, lui. Aspetta, beh, senti, Clemente. Lei lo conosce, Dudu? Sì. Sono un buon amico di Dudu, come tutti quanti i cani, è pieno di qualità, è pieno di affettuosità e anche pieno di intelligenza. Pieno di affettuosità e di intelligenza. No, effettivamente, forse i cani cretini ci sono. Aspetta, no, ma esistono sicuramente, no, i cani. No, ma se, è vero, che sono sempre cani intelligenti, più, però. No, ma sono cani più ritardati. E aspetta cani un attimo, senti questa roba qua. Berlusconi ama Dudu più di quanto Monti ami Empi. Ti giuro, l'ha detto, sempre lui, Clemente. Sicuramente Berlusconi ama Dudu più di quanto Monti amasse il cane che gli hanno mollato in uno studio televisivo. Non credo proprio a una strategia mediatica. E peraltro faccio notare che giornali come il Corriere della Sera, Il Tempo o altri hanno dedicato rubriche a questo barboncino molto prima che Berlusconi ne cominciasse a parlare. C'è un tizio, voglio dire nome e cognome, un tale che si chiama Giuseppe Esposito, non so come si chiami, credo Giuseppe Esposito, non so, un emerito sconosciuto che però istiga a picchiarci, caro Parenzo. Sto tutte ascoltando due o la solo tanto no, te? Questa volta tutte e due. Sto ascoltando, per fortuna, ogni tanto. Sto ascoltando la zanzara, la bassezza e il servilismo di Giuseppe Cruciani e della sua spalla glabra. Poi non si capisce perché glabra. Beh, la sua non è spalla un insulto, glabra non è un insulto. Beh, sì, evidentemente secondo lui è un insulto. Sono vomitevoli, istigano a picchiarli. Prego, si accomodi, signor Esposito. Beh, anche no. Beh, sì, si accomodi, da Giuseppe, no, Esposito. No. Giuseppe anche Esposito. No. Così, a futura memoria. Ma è un nome solo. Vengo lì di pigliacarti in culo. Sì, vabbè, però tu lo dici per scherzo, Corona, eh? C'è gente che fa finta di dirlo sul serio. Mirko da Torino, però prima abbiamo ancora Maccari con noi, il mitico segretario generale del COISP, eccolo qui. Maccari, allora, ma c'è il rischio di disobbedienza civile tra i poliziotti? Nah, ma quando mai? Ma non esiste una roba. Non esiste, cioè. Non esiste. Cioè, che... senta, abbiamo le palle che girano, ma è un'altra cosa che fare istigazione o disobbedire alle leggi. O addirittura fare rivolte. Ma c'è qualcuno di voi che lo dice, però? Vi mettetevi d'accordo voi sindacalisti? I giornalisti che dicono stronzate, voglio dire. Pure questo è vero, anche noi le diciamo, per carità. Ce ne sono di gente, ci sono medici che sono delinquenti, poliziotti che vengono arrestati. Abbiamo gente che ha il cervello come un flipper, voglio dire, ce n'è di tutti i tipi in Italia, no? No, scusi, Maccari, ma mi dica una cosa. Non vi siete stancati ogni tanto di prendere le botte da questi notab? Come no? Perché solo il notato? Per dire, no, io faccio l'esempio dei notab, degli ultra, cioè. E non vi siete stancati di prendere le botte? Non sarebbe il caso ogni tanto di reagire, sì o no? Grazie cavolo, dopo che lo facciamo ci sono miliardi di polemiche, altro che il casco appeso al cinturone, viene fuori la terza guerra mondiale ogni volta che si tocca con un fiorellino qualcuno, ormai in Italia non si può fare più niente. Ma secondo lei che cosa bisognerebbe fare in certi casi? Aspetti, allora lei se mi parla in generale, ma in generale, in alcuni casi quando ci sono gli attacchi, quando vi attaccano con le pietre, con i bastoni. Dicevo, oggi manifestare è un diritto sacrosanto, noi lo dovevamo dire. Ma questo qua siamo d'accordo. Però quando si supera la linea della legalità bisogna essere inflessibili. Oggi invece non lo siamo, le faccio un esempio, non si può andare bardati in manifestazioni. Non si può. Si deve intervenire, non lo facciamo perché la reazione che ne avremmo sarebbe diversa da quella che ci prefiggiamo. Io non sono d'accordo su questa teoria, sia chiaro. Ha fatto una valutazione di ordine pubblico, Sì, ma non è. Sarebbe molto così più pericoloso prenderli dal corteo. Questo lo dice qualcuno. Ma no, ma chi l'ha detto questo qua? Sarebbe cosa buona e giusta. Da lui. Ma non lo pensa lui, non hai capito? Coloro che non capiscono una sega di quello che si sta parlando. Cioè i suoi capi, i questori, i prefetti. Ma guardi che francamente i miei questori di solito generalmente poco ne hanno fatto di strada, Quindi strada intendo dire attività. Però guardi, in strada bisogna sempre valutare, ogni manifestazione è diversa. Però sì, non c'è dubbio, però secondo lei in alcuni casi il magistrato a Roma, quando hanno sfasciato tutto, noi abbiamo denunciato sei persone per resistenza. Sì. Il magistrato non ha convalidato l'arresto, non le sto dicendo che ha convalidato gli amici fuori, ci mancherebbe. Non l'ha convalidato, è come ci fosse stato il magistrato a fianco nostro, sì, che ha visto che noi stiamo dicendo una panzana, le pare normale? Dunque spesso i magistrati non vi danno retta, cioè non seguono, non... È l'atteggiamento generale ormai della società che va così. Noi stiamo... Senta, ma in qualche caso ci sarebbe bisogno di usare le maniere forti? Se lei vuole farmi dire che io sono fascista, che no, fascista, mica bisogna essere fascista. Sono inflessibile nei confronti di chi non rispetta quegli altri che manifestano pacificamente. Sì. E dovremmo esserlo tutti. Cioè, se uno tira una pietra, a lei che cosa farebbe personalmente? Che cosa ordinerebbe di fare? Di fare una carica, di picchiare, di portare. Dobbiamo picchiare quelli che stanno a fianco, cioè, bisogna andare a prendere quello. Ma una volta chi faceva le manifestazioni, scusi, anche lei credo che abbia circa la mia età, il servizio d'ordine prima di tutto veniva organizzato dai organizzatori, per evitare che ci fossero... Oggi non c'è più. Senta, la tipa che ha baciato il casco al poliziotto, le fanno, la tipa che ha baciato il poliziotto sul casco lì, ha dato quel caso, cosa farebbe lei? No, l'ho fatto, l'ho denunciata. Perché cosa? Lo deciderà l'autorità giudiziaria. Vabbè. Secondo me ci sono un paio di reati. Tipo? Uno è l'oltraggio. Poi? E lei adesso sembrerà strano, ma anche violenza sessuale. Violenza sessuale? Perché? Sì, perché se io adesso vengo lì a lei, la bacio sulla bocca e lei non vuole, cosa pensa che sia il reato? Beh, sì, sì. Questo è interessante. Questo dell'oltraggio. Se un poliziotto si togliesse il casco, non per fare la marchetta, ma per baciare un manifestante così a caso, sarebbe fuori la terza guerra mondiale sui giornali. Dunque, secondo lei potrebbe essere... È una mancanza di rispetto totale, poi l'ha confermato con le sue dichiarazioni che vorrebbe i poliziotti impiccati a testa in giù. Ma guardi che non esiste più l'oltraggio. Un attimo che c'è la borsa, un attimo la borsa. Ma chi sta parlando sotto? Ma chi è sotto? Parenzo. L'oltraggio non esiste più, ma da quando? Ma mi sembra che l'abbiano modificata la disciplina sull'oltraggio. La borsa. Mi scrive Riccardo dalla Puglia. Potete fare per favore un appello per far riaprire i negozi ad Andria, Trani, Bisceglie e Barletta? Io sono di Andria, sono andato a Molfetta, 40 km per fare la spesa. Ho mia madre anziana che non si può muovere, ho dovuto lasciare il lavoro nel pomeriggio. I delinquenti minacciano i negozianti di non riaprire i negozi. I forconi, alcuni dei forconi, non tutti. E sentiamo alcune voci di una protesta che non si capisce dove voglia andare, se non un generico distruggiamo il Parlamento, arrestiamo tutti, mandateli a casa. No, noi non siamo estremisti, siamo tutti padri di famiglia, chi è esodato, chi è autotrenista con i problemi, che sono 8 mesi che non prendono lo stipendio, pensionari che devono vivere con 400 euro al mese, siamo stufi, stanchi di questa situazione politica. Quello che posso aggiungere io è andare domani tutti quanti sotto i palazzi del potere e farli cadere a calci in culo dalle loro cazzo di poltrone. Posso chiedere se ha una famiglia? Sì, 2 bambini, piccoli, e non so che futuro ci posso dare, senza casa, senza niente. Come senza casa? Senza casa, l'ho all'Equitalia, non la posso riscattare, che faccio? Ciao, abito dentro. Da fuori casa? Ma ancora no, non ci butta nessuno perché li taglio con la motosega. Li taglio proprio, mi metto la motosega in mano. Le pensioni nostre future vengono buttate per coprire i debiti che vengono fatti da una banda di ladri incompetenti, succhiasangue, pidocchiosi, sudici, marci di politici, da destra, sinistra, centro, a continuare. La cosa incredibile è che, da quello che viene fuori, dalle notizie di oggi, caro Parenzo, è che Berlusconi vuole incontrare i capi dei forconi. Capito? Berlusconi, che ovviamente va a... a succhiare da una parte e dall'altra adesso, vuole incontrare i capi dei forconi. E leggi il giornale, per esempio, leggi il giornale. Un leader moderato. In altre occasioni, la gente che occupava le strade, la gente che rompeva le palle a quelli che lavorano sul serio, a quelli che lavorano, avrebbe fatto un mazzo così. No, ma vergogna, la legalità. No. Non è l'amore che trionfa sull'odio, quello che diceva lui, questo. Non c'è nessun amore qua nei forconi. Fabio da Milano, 800240024. Fabio. Sì, buonasera Cruciani. Allora, come dice Marco Pannella, lei non capisce un cazzo. Benissimo. Ovvero, io dico anche che lei è un cagasotto. Bene. Anzi, io dico anche una cosa in più. Lei non è che non capisce un cazzo, sì. Lei capisce solo i cazzi suoi. Sì. Cioè, diciamo che sì, ma andiamo al dunque. Dopo avermi insultato per 30 secondi, sì, andiamo al dunque. Perfetto, vabbè, vediamo, quella è la premessa. Sì, allora, la premessa, certo. Ieri inveiva contro i forconi, d'accordo? Sì. È rimasto un po' deluso. Da che cosa? Stasera, sentendo il rappresentante del sindacato dei poliziotti che diceva che... In effetti molti poliziotti si sono tolti il casco, se lo toglierebbero e molti votano Grillo. Non sono rimasto affatto deluso, a parte che è l'opinione di un sindacalista della polizia, va benissimo. Gli ho fatto io le domande, non per farmi rispondere come voglio io, ma come vuole lui, le dico un'altra cosa, se fosse per lei non cambierebbe nulla, perché sì. Io e invece cambia qualcosa con i forconi, invece cambia qualcosa con i forconi. Il potere costituito. No, esatto, perché quando c'è un potere, il governo, la politica. Allora, le leggi sono fatte dagli uomini, possono essere anche cambiate. Dunque? Quando le leggi sono inique, le persone hanno il diritto di protestare, sì. Capisci? Ma bisogna vedere quali leggi, ovviamente. Ti ricordi anche una cosa, che quando chi non ha più nulla da perdere, è in maggioranza rispetto a chi ha qualcosa da perdere come lei, perché tutti quelli che si cagano sotto è perché hanno qualcosa da ma perdere. Ma cagare sotto che vuol dire poi concretamente? Quando è in maggioranza, vabbè, tanto non lo succede quando, ma la rivolta è inevitabile quando è in maggioranza, capisce? Sì, è inevitabile. Sta parlando con una persona? Sta parlando con una persona che non è un disperato, non è un disoccupato. Io sono un imprenditore, sono soddisfatto del mio lavoro, ho le mie soddisfazioni, sono incazzato. È incazzato. Altri, poi le dico un'altra cosa, agli ascoltatori della Zanzara, non perdete tempo con Cruciani, cioè non vale nemmeno la pena di dargli due schiaffi, perché è un cagasotto. Bene, d'accordo? Bravo, questo Fabio, lei è un genio, benissimo. Grazie, ci ha fatto un grande regalo. Non sei nemmeno capace di fare le invettive. Sì. Va bene? Perché le invettive le fanno gli altri, chi ha le palle. Sì. Io già ti vedo a scuola, sai come ti vedo? Sì. Ti vedo come quello che provoca, ma poi appena uno alza la mano ti caghi sotto. È fatto sempre così anche da quando andavi a scuola. Non ho mai alzato le mani in vita mia. Hai capito? Non ho mai alzato le mani con nessuno in vita mia, per fortuna. E me ne vanto anche. Ma provochi cosa? Ma con le parole, hai capito? Vabbè, ma tu non sai quello che dici. Ma non sai quello che dici. Ma chi? Ma cosa? Ma non sai quello che dici. Ma io me ne vanto. Ma tu sei un violento. Tu sei un violento, hai capito? Incidi tu la violenza. Come ti permetti di dire maledetti forconi? Sì, certo. Ti metterebbe le mani addosso. Ma chi? Perché non è un uomo. Io penso che tu non hai né amici. Ma tu ce l'hai gli amici? Lascialo parlare per 20 minuti. No, infatti, guarda, no, mi basta l'ultimo minuto. Vai pure. Delira. Continua il delirio. Ha intervistato un giornalista che era sempre davanti al Palazzo di Giustizia a Milano. Ha detto: un uomo libero. E Parenzo fa: ma non è l'unico. Parenzo, dimenticatelo, perché tu non sarai mai un uomo libero, d'accordo? Ho capito. Chi ha servito, chi può lavorare, lecca il culo a qualunque fazione, a qualunque partito, non è un uomo libero, va bene? Gli uomini liberi sono altri. Chi ha le palle di scendere in piazza, oggi ero a Milano e se trovavo una fila per poco, dicevo finalmente, gli italiani si sono svegliati, capito? Basta così, quello che ti devo dire ti ho detto, e come dice Pannella, non capisci un cazzo. Ciao. Allora. Non capisci un cazzo. La zanzara è quell'odioso insetto che non Giuseppe dalla provincia di Chieti. Buonasera, parlo con Cruciani? Sì, ecco un altro. Con la I finale? Ecco un altro, vai. La I finale? Sì, sì, beh certo, Cruciani con la I finale. Sennò la I finale, sì. Sì. Oh, Cruciani, la sento molto nervosa. Deve combattere. Ma che combatto? Allora, ma che combatto con quei poveri cretini che chiama, questo comunque il povero imbecille che chiama lì, che ha finito da poco di parlare. Ma che, lo lascio parlare, lo lascio sfogare, uno sfogo grandioso, lo vorrei ogni sera. A un certo punto l'ho lasciato sfogare, si doveva sfogare, bravo, fatti bravo. Suoi. Oh, Cruciani, le è caduto il pappagallo dalla spalla? No. No, è qui, caro. E questo è l'altro matto della provincia di Chieti, quello che c'ha 20 telefoni, no? Sì. Prima di no, non c'ho 20, oh Crucià, non c'ho 20 telefoni. 4 ce n'hai, dai. No, sempre lo stesso numero. Sì, sempre lo stesso, infatti. Sì. Allora, no, Crucià, prima di parlare del suo pappagallo, allora, il suo look. Sì, il mio look. Un po' retro, no? Ma tipo non lo so. Rolling Stones. Faccia lei. Faccia lei. No, mi interessava sapere come fa lei, cioè adotta lo stesso stile. Sì. Dice, mi scusi, una domanda un po' così. E chi glielo suggerisce? Sua moglie, la sua amante? Sono cazzi miei. Bravo Cristiano, così mi piace. Adesso possiamo parlare del suo pappagallo, dai. Non c'ha una vita, povero. Allora, dove ce l'ha? Sulla spalla o ce lo tiene in gabbia? Lo tiene in gabbia? Non ha una vita, terribile l'abbandono della gente, è terribile, veramente uno spaccato di civiltà, incredibile. La gente sola, è terribile. No, niente, pappagallo, si va davanti. Sei una persona sola, Giuseppe, sei una persona sola. La gente così è sola, è terribile. No, ascolti. Sta dicendo Parenzo che sei una persona sola, no, purtroppo. Ma è drammatico. Non hai interessi nella vita, non hai interessi. Le ho mandato con il Corriere, Pannolini, un peperoncino abruzzese, quello piccante. Mi dia un cucchiaino, questo, un po' grazie, così, questo, se lo tiro da mezzo alle palle, insomma, questo qua. Questo che... grazie, Giuseppe, grazie molte, ma non si disturbi così tanto, Giuseppe. È solo, poveretto. Se non deve funzionare, che campa ancora... Lo può mandare al Circo Orfei a 300 euro al mese a fare il pappagallo. Una cosa drammatica, che gente sola. È gente sola, sì. Ma non guarda la televisione, capisco, non può stare tutto il giorno davanti alla Cruciani. Televisione. Ha fatto bene a chiamare comunque, grazie. Grazie, il servizio in convenzione continua. Sono come zanzare. Gente disperata. Beh, anche quel Fabio di prima non era male, Non era male, la disperazione fa brutti scherzi. Comunque, mentre Berlusconi incontrerà sti forconi, Alfano gli dice no. Capito i due? I forconi, non ci posso credere, i forconi. I forconi. Poi ci sta. C'è sicuramente della bravissima gente, Qualcuno ma cosa vogliono poi in sostanza? Alcuni vogliono le tasse, la diminuzione delle tasse, figuriamoci se non vogliamo pure qualcuno noi. Qualcuno va solo lì a fare casino, questo sicuro. Altri vogliono l'indipendenza del Veneto, e vabbè, d'accordo, anche quello va benissimo, per carità. Anche l'indipendenza. Altri anche di vogliono assaltare il Parlamento, vabbè, anche quello. Beh, no, questo è già diverso. No, ma sì, d'accordo. No, sì, d'accordo, questo è già diverso. Altri vogliono che cambino le cose. Vabbè, cambiamo le cose. Sì, cambiano le cose. Bene, altri ancora vogliono che il figlio non dorma più a 22 anni, ma che trovi lavoro. Vabbè, quello è un altro lavoro. Vabbè. Ma è con noi Stefania Ariosto. Buonasera. Buonasera, Cusani. Come andiamo? Con la mitica teste Omega. Ah, ecco. non quella delle spezie, diciamo. Cosa? Che c'entra? No, mitico è lei, l'Ulisse astuto, della nostra odissea mediatica. Ma sono qui a parare, a proteggermi dalle pietrate. Dalle pietrate, cara Ariosto, cara da Ariosto. Da chi? Chi gliele manda? Le pietrate virtuali, ovviamente. Virtuali, anche se qualcuno si fa venire qualche tentazione ogni tanto. Ma lei è un bellissimo uomo, li deve sedurre tutti. Giovane, ma magro, alla radio non aggressivo. È che. Anche lei, dicono che si porta bene, signora Ariosto. Sì, sono tonica, braccia e gambe, perché domattina vado con i cani nel bosco e quindi cammino molto. Ah sì, vi lascio soli allora. No, non ci lasciare soli, per adesso non ci lasciare soli, più avanti vedremo, insomma, per adesso no. Ma lei è molto tonica, veramente? Signora Ariosto? In forma? Assolutamente sì, sono in forma. Fisicamente, come le dico, ho due cani maremmani stupendi che mi obbligano purtroppo il mattino alle 5:30 ad andare nel bosco. Non le chiedo l'età, perché siamo assolutamente qui. Assolutamente sì, perché no? Ah no, io la chiedo, chi se ne frega di questi formalismi? 64 compiuti. 64? Però sono magra come lei. Cioè, ma a 64 ma va la grandissima, no? Fisicamente, perché ho visto qualche foto, cioè magra, tonica, alla grande. Esattamente, grazie ai miei cani, perché i cani sono la gioia, unica gioia della vita, credo, ad oggi. E quindi Anche per Berlusconi, anche per Berlusconi. Infatti ho visto che ha aperto un sito su Dudu. Forza Dudu. Gli dia un consiglio, lei che è stata così amica di Berlusconi, quindi ha fatto le fortune di Berlusconi e ha fatto perdere 500 milioni di euro. No, ma infatti, guardi, a questo punto voglio chiedere scusa a Berlusconi, perché con le mie dichiarazioni inconsapevoli, vero, ho arricchito un altro portafoglio del quale sinceramente non è che io sia poi così contenta. Cioè De Benedetti. De Benedetti, dice lei. Cioè ha fatto incassare un sacco di quattrini al signor De Benedetti. Ma perché non è contenta? Non sono contenta perché voglio dire, ci sono, adesso non so quanto tempo abbiamo per parlare di questo argomento. No, lei parli, poi casomai la interrompo. Ma perché, guardi, io voglio dire una cosa importantissima, perché quello non è buono. Sì. Poi se non è onesto non lo so, perché è stato condannato per un reato di evasione fiscale. Sì. Quello che veramente ho nel mio pensiero da sempre è che Berlusconi deve temere i fedelissimi. Vabbè, questo lo dicono tutti però, cioè. No, lo dico io con scienza e coscienza. Sì. Cioè in che senso deve temere i fedelissimi? Mi spieghi? Guardi, perché ci sono fedelissimi e fedelissimi. Cioè Berlusconi è meglio dei suoi, quelli che gli leccano il culo, diciamo, adesso lo dico in maniera... Ecco, bravo Cruciani, questo assolutamente sì. Deve temere proprio coloro, come dice lei, che fanno questa funzione. Ma chi? Chi? Adesso i nomi e cognomi non mi vorrei capire. Cioè, allora adesso lasciamo perdere i nomi e cognomi. Lei sta dicendo che Berlusconi, per esempio, lei apprezza molto più Berlusconi di De Benedetti? Vabbè, guardi, non mi faccia questa domanda perché è inutile. Io De Benedetti non lo conosco, non so neanche chi. Ma le ha mai detto grazie per il suo contributo che ha dato, insomma, all'arricchimento dell'azienda? No, assolutamente no, ma sono un po' arrabbiata per un fatto solo. Perché cosa? Dopo quello che mi è occorso, diciamo, ultimamente, che lei avrà letto tramite i siti. Dopo ne parliamo, ecco. E qualcuno mi aveva telefonato per farmi un'intervista. Di solitamente Repubblica, l'Espresso, lei sa quante pubblicazioni mi hanno fatto, no? Sì, quando si trattava di sostenere il loro capo che doveva incassare dei quattrini. Sì. E poi a un certo momento cos'è successo? Che il prezzo è stato pagato, il fio è incassato e quindi il giornalista è stato poverino mortificato, mi ha chiamato e mi ha detto: no, guardi, preferiamo non farla adesso l'intervista. E certo, no, aspettano che la magistratura faccia il suo corso, che le indagini facciano il loro corso, e neanche una parola in difesa. Io sono stata attaccata dai mezzi di comunicazione, come lei ben sa, soprattutto quelli web, che Marina Soliani è stata la pianista del web. E non ho avuto, e di questo mi sono lamentata, e ho mandato una email a chi? Mauro, ma non mi ha neanche risposto. Ma perché? Io non ho capito, lei è stata attaccata su che cosa? Sulla vicenda quella del casinò? Ma certo. Sulla vicenda del casinò. Vabbè, hanno dato una notizia. Stefania, su, hanno dato una notizia ai colleghi. Adesso, per carità, non mi frega niente di difendere Repubblica, ma hanno dato una notizia. Non è perché siccome tu sei quella del test Omega che ha fatto, allora devono... Hanno dato una notizia. Cioè, che non ma vedo... No, non hanno dato nessuna notizia, no. Ti assicuro, scusami David, perché io volevo fare un'intervista. Allora, cioè, parliamone, scusa Stefania. Spieghiamo che è successo, però se no si capisce. Scusa, spieghiamo. Stefania Ariosto è stata accusata in sostanza di aver simulato un reato. Cioè dire, questo è falso perché. Sarà falso, ora... però poi lo decideranno gli inquirenti se è vero o falso. Cioè di aver perso una borsa con dentro 40.000 euro. No, bisogna capire, caro, lei è il mio Ulisse, no? Uomo da multiforme ingegno, Cruciani. Ora, lei sa che le fonti non si possono rivelare. Io vorrei capire qual è stata la fonte dalla quale ha attinto la Soliani. Ma chi è sta Sogliani? Scusi, chi è Marina Sogliani del Corriere.it, che poi ha pestato tutto il web perché tutti hanno riportato il suo articolo. Io vorrei sapere, ma non lo potrò mai sapere, lo saprà la magistratura sicuramente, chi è stata a dare questa falsa notizia. Vabbè, maestro, ma lei è indagata o no? Lei è indagata per falso... Sì, per... sono indagata, ma un momento, l'ho saputo dalla stampa. E vabbè, lasciamo perdere adesso questa roba qui, però sto dicendo... lei ha simulato, però Stefania, volevo chiederti una cosa. È vero o no che hai simulato questo reato, 40.000 euro... Ti hanno rapinato sul serio? Ti hanno rapinato? No, non ho mai detto di essere stata rapinata. E dove l'hai persi questi soldi? Io ho avuto un malore, sono caduto dal borsellino, sono fuoriusciti 50.000 franchi. Sì. E siccome sono stata interrogata, ho chiesto di essere interrogata dal PM, ci sono già dei testimoni che hanno visto denaro nel mio borsellino. Dunque sei caduta e hai perso questi soldi. Quindi hai i soldi. I soldi c'erano, c'è il testimone, il parcheggiatore che lo conferma. La Marina Sogliani che dice che io ho buttato la borsetta in mezzo alle autovetture è una pazza scatenata. Vabbè, lì ci sono le immagini, pare che ci siano le immagini. Ma sono parziali le immagini, infatti ci sono le indagini in corso. Ma come mai sei caduta, scusa? Come mai sei caduta? Scusami, Stefania. E questo è un problema. Io certo non posso aver compiuto un atto di autolesionismo, no? Questo è un fatto molto importante. Cioè, come mai sei caduta? E questo è da spiegare, perché come lo spiega? No, quello che volevo dire è che è molto, ma era tardi molto... la notte, cioè, magari c'era stato un... no, ecco, questo ti voglio dire, le voglio dire, Cruciani. Un giocatore, lei sa che il gioco è strettamente connesso all'eros. Ma quanto giochi? All'emozione, ma aspetta, quanto gioco? Io stavo andando al casinò, non tornando. Quindi un giocatore che deve andare a giocare vuole solo giocare. Ma non avevi bevuto, vero? E non si può inventare, assolutamente no, erano le 20 e 22, devo andare a cena e poi andare a partecipare alle gare. Un attimo solo che ho la pubblicità, torno subito. Io vi adoro, ogni giorno vorrei fare la zanzara. L'avidità è un valore essenziale dell'attività economica. L'ineguaglianza serve a scatenare lo spirito dell'invidia che promuove la crescita di un paese. Allora, vi ripeto, l'avidità è un valore essenziale dell'attività economica. L'ineguaglianza serve a scatenare lo spirito dell'invidia che promuove la crescita di un paese. Sapete chi l'ha detto? Milton Friedman. Ma che Friedman? L'ha detto l'attuale sindaco di Londra, Boris Johnson. I hope that the Gordon Geckos of London are conspicuous not just for their greed, and I accept the CPS view that greed is a valid motivator of economic progress, if there is to be a boom in the 2010s. Luca D'Ancona, buonasera Luca. Sì, salve. Dimmi. Sì, volevo innanzitutto congratularmi con il programma, perché è un programma d'attualità molto interessante. Vabbè, non ce ne frega niente dei complimenti, Luca. Volevo parlare riguardo a Parenzo. Secondo me è una persona poco professionale, perché fa sempre i collegamenti in treno di tutte le altre parti. Ma non si preoccupi per questo, ci penso io. Casomai lo rimprovero io quando è il caso. Lei non c'entra un cazzo, scusi Luca. Secondo me invece non è poco professionale, perché voi emulate tanto le radio americane, però è una figura che è di basso rilievo, secondo me. Vabbè, di basso, alto rilievo. A lei non piace, a altra gente piace. Siamo alla normalità. Un abbraccio fortissimo. L'abbraccio fortissimo. Marco da Latina. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Dalla Littorina. Voglio dirti una cosa, Cruciani, molto educatamente. Sì. Ma io dico, non ci andare su questo momento dei forconi così. Sì, io capisco che ti offendono, ti fanno, ma guardi, è una cosa seria. Ma guardi che qui, Cruciani, qui c'è gente veramente, te la sta passando male. E allora? Io non so lei quest'anno che Natale farà. E dunque? Dunque, ma non la critichi, non le dica di male. Ma io non sto criticando, non le parla male, ma lei si rende conto? Ma lei si faccia. Lasci stare, io non voglio disoccupati. Ma che c'entra questo? Ma... disoccupati, ultra, partite IVA, studenti, cosa vogliono? Non si capisce. Vorrebbero un cambiamento totale. Non vuol dire niente. Bravo. Non vuol dire niente, ha capito? No, niente, non vuol dire nulla. Non vuol dire nulla. Perché cosa bisogna. bisognerebbe fare. Lei cosa vuole, per esempio? Che cambiamento vuole? Facciamo un esempio. Che cambiamento vuole? Me lo dica. Voglio che questa banda di delinquenti che ci hanno governato, eccolo, fino ad oggi, eccolo, questa banda di delinquenti, eccolo, vedi. Ma sai che cosa vorrei io? Guardi, cosa? Dimmi, adesso, dimmi, quando, dimmi. Quando un personaggio di questi è acquisito, è assodato che abbia fatto quello che ha fatto, sì, ci si toglie il tutto, ci si toglie il tutto, sì, ridiano, ridiano al popolo sovrano, al popolo, sì, quello che hanno tolto. Che qui dire? C'è gente che se la passa male, veramente, veramente. Io non so lei che Natale farà, qui c'è gente che questo Natale lo farà molto male. Questo è vero, caro Ruggiani. Stiamo parlando di cose serie, non stiamo casseggiando. Qui c'è gente veramente che non ne può più. Hai capito qual è la proposta? Hai capito qual è la proposta? Ma su questo ha ragione, cioè che c'è una ma che ragione di cosa? No, ma ha ragione tutto, sul fatto che c'è tutto. Disperazione, ma rabbia, che qualcuno può andare in piazza come è successo in Grecia, dove si è movimentata una spontaneamente una protesta contro quel palazzo. Questo ha ragione. Ha ragione. Che, ma l'hai sentito per dire che ha ragione? Arrabbiata. Ma non lisciare il pelo alla ma gente che non dice nulla. L'hai sentito questo Marco da Latina? L'hai sentito o no? L'hai sentito? E che proposta è? Ma non è che deve sempre la proposta. C'è quello che sta accadendo anche in Grecia, per cui se il livello di disperazione sale e la gente non mangia davvero più, Ma mi dispiace dirtelo, ma io dico semplicemente che di fronte a questo, che è vero, in mezzo ci sono tifosi della Juve e del Torino che vanno lì a spaccare le vetrine e si inseriscono dentro la protesta e fanno casino, ci sono camorristi che si inseriscono dentro la protesta, c'è la criminalità, ma a fronte di queste c'è gente che non ce la fa più e che come in Grecia scende in piazza. Ma questa è una banalità, ma è vero però che succede. Ma sarà, ho capito, ma vuoi dire quello che pensi o no? Allora Marco da Latina, io penso che abbia ragione, penso che chi ha fame, bravo, ha ragione, benissimo, vabbè, hai detto la cazzata della serata, dai. Marco da Latina, perché tu hai la pancia piena, sì, per forza, vabbè, invece tu ce l'hai vuota. Se tu Marco non hai da Latina, io per fortuna non è che ce l'ho vuota, se tu non capisci che chi ha la pancia vuota, ma ci sarà sempre chi ha la pancia vuota, vuoi capire o no? Ma come sempre ci sono dei momenti storici in cui la povertà sale molto di più, no? Ma se non riconoscere questo, cioè, non riconoscere questo è assurdo. Allora Franco, qual è la proposta? Andare a prendere questi qua che hanno fatto qualcosa e fare cosa? Non mi dica, qual è la proposta? Cruciano, mi sente? Sì. Io guardo un'ultima cosa, a parte una proposta, io no, ma la proposta, quando ti ho chiesto una proposta mi hai detto andare a prendere questi qua colpevoli, sì, a fare... Sì, ritirare, andare sul loro conto corrente. Sì, ma chi? Ma è chiaro che conto corrente di chi? Di questi signori che ci hanno quali? Tutti, regione, tutti, provincia, comune, tutti, andare nei conti correnti, tutti. Ma lei sta dicendo, sì, ma lei è pazzo, sì, lei è pazzo, questa è una follia, lei è pazzo, lei è pazzo, guardi, lei, lo sai, io adesso, guardi, io lei l'ho conosciuta bene proprio quando alla trasmissione Radio Belva, se la ricorda? Ma lasci perdere, Franco, lei, perché ecco, che c'entra allora, Radio Belva? Che c'entra Radio Belva? C'entra, perché io ho visto che vicino, che di fronte a qualcuno che le sa rispondere. Ma che Scarpi, c'entra? Ma cosa c'entra? Scarpi. Ma è un altro argomento, è incredibile. È stato un cacasotto. Sì, va bene. Un cacasotto. Va bene, benissimo, sono un cacasotto. Questo l'ha detto già quell'imbecille di prima. L'abbiamo risolta questa cosa, questa l'abbiamo accertato, è così. Ma lei mi dica, vuole andare a prendere? No, ma lasci perdere me. Lei vuole andare nel conto corrente delle persone, ma che vuol dire? Che è una follia. Ma allora cosa dai ragione tu? Cosa dai ragione a questo pazzo? Mi dispiace che tu non capisci, ma questo non mi stupisce. È evidente, al di là di quel che dice questo signore qui, che chiaramente è una follia quello di dire andare a prendere nei conti dei politici, è una follia. Ma è il sentimento di che cosa? Della gente che non ce la fa più di prima, più di 2 anni fa, più di 1 anno fa. Senti, amico mio, hai detto, ma tu stai dicendo delle cose di una banalità sconvolgente. Mi sconvolgi, no, poverino, mi sconvolgi, no, mi sconvolgi. Allora bisogna dire semplicemente andate a fare in culo, come ma dici tu, c'entra? Giusto? E questo invece ma... è originale. O come è originale quando chiama uno disperato e dire vada a fare in culo. Vabbè. È molto originale questo. Vabbè. Mamma mia com'è nuovo. Sì. Mamma mia com'è nuovo. Quando ti sei sfogato, è nuovissimo. Me lo dici, Questo è nuovo. Quando chiama è finito? Uno, quando non è ce la faccio più, sfogarti. Sono povero. Chi se ne frega che lei è povero? Chi se ne frega? E tutti sono poveri. E la povertà non si può abolire. Certo, ma almeno quello è un ragionamento. Almeno quello è un ragionamento. Ma dire la povertà non si può abolire è un ragionamento. Sì, dire la povertà è un ragionamento. Certo che sì. Cioè è un ragionamento, dire la povertà non si può abolire. Allora dimmi che sono un coglione. Allora cazzo, dimmi che sono un coglione. Alla Milton Friedman. Sì, quando dici così sei un coglione. Benissimo, perché benissimo. È evidente che nessuno dice bravo. Aboliamo la povertà. Bravo. Non c'è un politico che dice aboliamo come la povertà. No, voglia, quando no. dici così come sei no. un fatto, coglione. Hanno fatto è evidente. Hanno fatto ma cosa c'entra la povertà? Hanno fatto una manifestazione contro la povertà. Sono poveri. Hanno fatto una manifestazione contro la povertà. Tutti l'hanno criticata. Allora ci sono i politici che parlano di povertà. Ma no? Nessuno vuole abolire la povertà. Vabbè. In quanto dire una società senza povertà è ovvio che non esisterà mai. Vabbè. Neanche nella Russia di Stalin. Bravo. Erano, c'era la povertà zero, è evidente, no? Ma questo è talmente banale. Infatti, sono banale, sì, bravo. Questo bravo. È banale. Questo sì, è banale. Bravo, sono banale, bravo. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Ancora con noi Stefania Ariosto, eccoci qui. Eccoci Cruciani, ho sentito questa conversazione. Ma lei Berlusconi dire... un po' politicamente le piace o no? Guardi, dopo 16 anni mi sono ricreduta, mi piace. Sai perché? Adesso perché? Sentivo questo signore sì. che lamentava e me le diceva appunto delle affermazioni che il malessere sociale è profondo ed è vero, ma sì. certo il rimedio non è quello di andare in piazza e andare nei conti correnti delle persone. E ci sono dei rimedi sì. diversi, i rimedi purtroppo sono sempre politici perché non si sì. può. Ma perché Berlusconi le piace? Al di là dei forconi, eccetera, le volevo chiedere perché oggi Berlusconi le piace rispetto no, a che ne no, so. No, adesso con calma. Ma l'ha votato piace... qualche volta lei? Ma guardi, io l'ho votato nel 94, poi non ho più votato per ovvi motivi che sono per tabulas, no? Ma lo voterebbe adesso? Tabulas. Ma guardi, adesso. Visto quello che è successo dopo la sua decadenza, che io non sì. trovo giusta, perché cioè, io sono convinta del principio di retroattività della legge penale e quindi si sarebbe dovuto aspettare quantomeno sì. la sentenza della Corte di Cassazione, eh. Ecco, è stato eliminato così parzialmente politicamente. Questo non mi piace perché piace. Sono una garantista e sono politicamente indirizzata sì. in un certo modo. Ma senta, avendo conosciuto dovrà... Previti, non è meglio lui alla fine, nonostante tutto quello che le ha fatto, eccetera, dei Ghedini e Longo di oggi? Ma guardi, me come avvocato. Aveva dei metodi spiccio, dice a Fra, che sì. te serve? Questo è il famoso lei romano come me. Ma avrebbe risolto la situazione di Berlusconi, secondo lei, meglio di quanto. Ecco, vede, questo è uno dei temi dei fedelissimi da temere, perché a questo punto io sono convinta che Berlusconi è stato accusato di fatti che veramente lui poteva non sapere. Invece le sentenze dicono che lui doveva sapere a tutti i costi. Io così voglio pensare. Ma secondo lei c'è un accanimento della magistratura nei confronti di Berlusconi? Guardi, c'è un accanimento non della magistratura, ma una parte, dei fatti che arrivano alla magistratura, capisce? Cioè? Perché Berlusconi è, come le posso dire, è un buono, delle volte un superficiale, ma tutto quello che ha fatto è stato superficiale. Perché? Si è fatto scoprire con il caso Ruby mentre sì. Faceva quello che sarebbe giusto fare nella propria intimità, però poi. Egli è ancora un uomo pubblico e quindi poteva evitare, come poteva evitare? Si serviva dei suoi servizi segreti e sì. nulla si sarebbe saputo, perché tutti i politici del mondo, certo. guardiamo Mitterrand, guardiamo tutte le più grandi figure capisce, rappresentative, trombavano pubbliche. A destra e manca, sì, la dico così. Ecco, bravo, ecco, e nessuno lo sapeva e lui si è fatto scoprire. Ecco, io qua trovo una sorta di ingenuità totale. Non so. Scusi, ma spiegare. Allora una parte della magistratura però lo accusa ingiustamente, ce l'ha con lui, c'è un accanimento. In questo ha ragione Berlusconi o no? Lei che è una storica accusatrice, ci ha ripensato da questo punto di vista? C'è stato un accanimento? Ci ho ripensato, ma è un accanimento dovuto, non so come spiegare, perché tutti i fatti che cioè lui le vuole se dire l'è cercata, se l'è cercata un po', se la cerca se l'è cercata però ci sono dei, sì. però ci sono dei magistrati che sì, puntano su di lui sì. che ma puntano. Mi viene in mente Capone, guardi, non l'hanno incastrato per i milioni di omicidi che ha fatto. Chi? E l'hanno beccato al sulle Capone. Tasse al Capone sì. Vabbè, però e l'hanno beccato sulle tasse, sull'evasione fiscale. Sì, un attimo solo che c'è la pubblicità. Capisce cosa ci sarebbe di banale nel dire che spesso si ha l'impressione che le persone cerchino l'eliminazione della povertà. No, sacche di povertà. Stai zitto un attimo. La sacche riduzione. Di... Ti sei sfogato. La riduzione della povertà. Ti sei sfogato abbastanza. Ho detto, sacche di povertà si possono diminuire. Ovviamente è normale che la politica serva a diminuire la povertà, ma la povertà esisterà sempre, questo voglio dire, capito? Per cui ci saranno sempre dei disperati in tutte le società occidentali moderne. Ci sono i disperati, avete capito o no? L'eliminazione della povertà esiste solamente come sogno nelle dittature. Nelle dittature Pippo Filippo Baudo contro Grillo ieri alla Zanzara. Sentite. Ma Grillo, quando fa queste cose, non si dimostra un po' fascistoide, secondo te? Purtroppo nasce un pensiero brutto, nasce. Cioè qual è il pensiero brutto? Scusa. È quello che hai detto tu. Cioè che un po' abbia qualche tendenza fascistoide. Certo, qualche venatura un po'. Un po'? Un po' fascistoide, dici tu? Insomma, un po' c'è. No, ma speriamo che sia soltanto un'impressione. Speriamo. Chiedo scusa alla Oppo come italiano. No, mi è dispiaciuto molto perché io conosco molto bene Maria Vella Oppo, che peraltro è una signora in pensione, una signora che conosco da molti anni, ottima giornalista, una critica molto obiettiva, non è stata mai legata a cordate, a cosa, è stata offesa in maniera grave. E io, anche se non c'entro niente, io chiedo scusa a Maria Novella Oppo. No, per conto mio, per conto di, come italiano. I parlamentari 5 Stelle sprovveduti. Ma sembrano bravi ragazzi, sprovveduti, vivono in un mondo diverso da loro, sono stati catapultati in un ambiente che difficilmente comprendono, quindi capisco le loro difficoltà, le loro ingenuità e anche la paura che hanno, perché se sbagliano vengono subito puniti da questi loro capi che li massacrano, e quindi non deve essere un bel vivere. E poi la questione della Rai, di Grillo che è andato in esilio, delle accuse che Grillo ha fatto a Baudo di aver leccato il culo ai socialisti. La risposta: sono stato io ad andare via dalla Rai, mentre lui poi l'anno dopo era già a Sanremo per 2 anni consecutivi, quindi questo grande esilio non l'ha vissuto, insomma. Le piace Grillo? Stefania Ariosto. Una parte di Grillo mi piace, sì. Tipo cosa? Beh, se vuole inizio con i punti, ma comunque non mi pare questo momento, visto la fretta. Poi lei è talmente adrenalinico, compulsivo. Sì, adrenalinico. Adesso compulsivo. Compulsivo, è compulsivo, da dire, no? Compulsivo, fantastico. Però perché mi piace la compulsività. Capito. Però per una parte mi piace, alcuni principi sono statuati. Una cosa, una cosa che le piace di Grillo, cosa? Cioè lo voterebbe, per esempio? Magari l'ha votato pure all'ultima elezione. No, non ho votato, non voto più. Non vota più. Vero, non dal 94 più. Non vota più. No, dunque, no, ho votato nel 2006 e poi non ho più votato. Chi ha votato? Prodi? Veramente... No, non si può dire. Vabbè, ma non è un mistero. Ma non è un problema questo, perché poi il mio giudizio personalissimo di valore... È fidanzata? Nessuno. Eh? È fidanzata? No, ho sostituito l'Eros con il gioco. Come? Con il gioco. E quanto gioca? Ma quanto gioco? Poco. No, poco nel senso, non in termini di valore. Beh, 50.000 franchi se l'ha portati dietro quelli che ha perso, che lei dice di aver perso. Ma io, dunque, 50.000 franchi li ho portati perché dovevo sanare una situazione di fido, perché sono affidata al casino di Campione d'Italia. Pure. E poi, certo, e poi avrei fatto un giochino, ma mica dovevo perdere. E comunque il mio che gioco? Gioco è molto diverso da molti anni fa, quindi cioè? mi diverto e poi guardi quanti debiti ha da gioco? Nessuno. Assolutamente nessuno. No, è una domanda, ma nessun debito. Nessuno. Ma è una malattia? Beh, il gioco per lei è una malattia, ma... o no? Ecco, io non sono ancora nella fase patologica, perché mi sono studiata, oltre a essere laureata in giurisprudenza, sono laureata anche in sociologia. Sì. Quindi mi sono fatta proprio un esame introspettivo mio personalissimo. Non è malata, hai capito che non è ancora. Non dico questo, sa perché? Sì. Perché, guardi, io dico questo. Sì, me lo dica. è veramente molto personale quello che dico, sto diventando rossa. Dunque, nella fase preparatoria di attuazione, cioè del gioco, uno va a giocare, si sviluppano, come in lei peraltro, no? Le endorfine, assolutamente. Poi ci sono le catecolamine, che sono una cosa difficile. Cioè lei gode col gioco. È vero, guardi, allora si possa spiegare veramente un amplesso con una giocata al casino, e poi soprattutto quando lei gioca un numero solo, che esce il massimo del godimento. Però scusi, ma Ariosto, io veramente non sostituirei. Non mi faccia finire, Cruciani, sì. Perché sono tutta rossa e mi vergogno di quello che dico, ma le assicuro che è una sostituzione vicaria, anche perché dopo la mia esperienza ultima col noto avvocato che non voglio neanche nominare, io veramente sono terrorizzata ad avere a fianco un uomo, perché le spiego, delle due l'una: o lo avrei sacrificato, perché purtroppo mio malgrado sono un personaggio pubblico e l'avrei coinvolto, capisce, nella mia posizione, magari il poveretto era ignaro di tutto e l'ho risparmiato, il presunto, no, amante. E in secondo luogo non mi fido più. Non capisce? Si fida più. Scusi un attimo, da quanto tempo è che non fa sesso? Non mi voglio fare gli affari tuoi. Da quanto tempo è che non fa sesso, signor Ariosto? Ma questo non è importanza, ci sono delle situazioni vicarie. Non so, anni, siamo in un momento anni. Che diventa ancora più rossa. Il gioco comunque è un sostituto vicario molto significativo. Perché? Anche l'alcol? Assolutamente no, io non bevo. Assolutamente. Fumo, sono una fumatrice. Accanita. Compenso con le passeggiate nel bosco. No, l'alcol assolutamente no. Ottimo. Perché io ho una concezione delle mie sinapsi molto, come dico, elegiaca, capisce? Quindi devono essere sempre pronte a recepire, a attaccare. Vorrebbe incontrare Berlusconi? Lei prima ha detto una cosa della quale io non sono d'accordo. La grande accusatrice di Berlusconi, io non l'ho mai accusato. Ma no, Berlusconi, vabbè. Grazie alle sue testimonianze. I fedelissimi, ma lui, poveretto, non ho mai detto niente contro di lui. Anzi, lui aveva così parlato male della mia mamma, che peraltro è mancata. Ma comunque io non porto rancore, dimentico. Ma l'uomo Berlusconi, non il politico, lo ammira, una grande tenerezza. Infinita. E lo ammira anche in parte. Sì, sì. Lo ammira. Ma si è fidanzato adesso di nuovo con una signorina? Ciao, Pasca, no? Vabbè. No, ho già detto di no, mai più. No, lei. No, non lei. Non è che abbiamo sempre di lei. Berlusconi. Beh, certo, mi piaceva in una situazione precedente, quella con Veronica Lati, sarebbe stata più ordinata. Giusta, ma comunque. Vabbè, sì, l'abbraccio, sì. Buona serata, grazie. Anche a lei, Cruciani, grazie mille, buonasera. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Stefano da Livorno. Stefano, buonasera. Buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io volevo fare una piccola premessa. Sì. Sono un ascoltatore della Zanzara abbastanza fedele. Sì. E ho sempre stimato questa trasmissione, questo conduttore, perché era uno anche polemico, dissacratore, che sapeva anche, insomma, entrare nel merito delle cose. Però sono rimasto molto sbalordito da questo atteggiamento che sta tenendo in questi ultimi due giorni contro tutto questo movimento. Ci sono 40.000 movimenti, ma di che stiamo parlando? È quello dei Forconi. Ma ce ne sono 40.000, ma sono diversi da una parte all'altra dell'Italia. C'è l'estrema destra, c'è l'estrema destra. Ma quale gente? Ma ho capito, ma che vuol dire? C'è un sacco di gente incazzata lo stesso che sta per strada e ha ore di ritardo per arrivare dalla famiglia nel posto di lavoro, che sono arrabbiati lo stesso, ha capito o no? Proprio una linea editoriale di Radio 24. Ma quale linea editoriale? Ma non esiste. Sono linee editoriali, ma non esistono, ognuno la pensa come la pensa qua. Ma la smetta di pensare a queste cose. La gente è incazzata perché non c'è da mangiare. La gente è incazzata perché non c'è da mangiare. Però è vero che a differenza del passato, molte più persone. Anche il pappagallo l'ha capito. Ma vedi, ma questo è evidente, cioè soltanto Cruciani non l'ha capito. Sì, a differenza di qualche anno fa, dove un fenomeno come questo Mi non lascio ci sarebbe, parlare delle vostre banalità. Va bene, sì, la povertà non si può eliminare, d'accordo. L'unico punto sei te, allora. Che discorso è? No, ma vi lascio parlare delle vostre banalità, cioè dire la povertà non si può cancellare. Viva la povertà. La gente che ha fame, sì, viva la povertà, certo. Le società dove non esiste la povertà, certo. Ma chi l'ha mai sostenuta questa roba? Per cambiare le cose in questo paese. Sì, cosa deve cambiare? No, perché poi appena entri un po' nel merito, cosa deve cambiare secondo lei, Stefano? Deve cambiare un sistema politico. Sistema politico, sì. Fa quadrato. Non permette nessuna innovazione. Che vuol dire? concretamente? Vuol dire che, per esempio, il governo delle larghe intese sì. non è un governo per il bene dell'Italia, ecco. È un governo per tenere tutti buoni. Ho capito. A fare lei vuole buoni. Cacciare il governo delle larghe intese. Poi ci sarà il momento in cui bisogna cacciare il governo che arriva, poi il governo precedente, poi il governo ancora. Sempre così. Cambiare il sistema. Il sistema. Magari con la S maiuscola. Cambiare il sistema. Ma che vuol dire, cazzo? Che vuol dire? È dal 92 che devono fare una legge maggioritaria, non la fanno. Ah, lei vuole la legge maggioritaria, lei per volere la legge maggioritaria. E lei per la legge maggioritaria che cosa fa? Va in piazza coi forconi per il maggioritario. Ma io le do due calci in culo, le do. Purtroppo, ma ci andremo volentieri. E te che cazzo fai invece? Sta lì. Io faccio il mio mestiere, lavoro. Lavoro, faccio il mio mestiere, capito? Sì. Capito? Non occupo le strade che non dovrei occupare, non rompo i coglioni alla gente normale che lavora, capito? Vabbè, ma uno che non lavora, cerca lavoro, come in tutte le società, ma cerca che banalità lavoro. È cerca lavoro. Lavoro, ma che cosa vuol dire cerca lavoro? Non va sotto Palazzo Chigi, non va a Palazzo Chigi. Guarda che tu questa roba qui stai alimentando l'esasperazione. Smettila, ma che alimenta l'esasperazione? Smettila, vai a dirgli a uno, guarda che smettila con queste banalità. Vai da uno che ha perso il lavoro da due anni. Ha perso il lavoro, bene, allora ma come fai a dire una roba simile? Allora, se è un gioco radiofonico per cui bisogna sparare la gente più grossa, allora sto al gioco. Ma se veramente nella tua intelligenza credi che uno che da due anni che cerca lavoro gli dici ma sì, ma vai a cercare lavoro e non si deve incazzare, non scende in piazza. Con chi? Allora, tu ti rendi conto di quello che sta accadendo? Sparirà tutto tra un giorno, tra uno o due giorni sparisce tutto, non ti preoccupare. Arturo da Venezia. Gli operai non occuperanno più le fabbriche. Venezia, stai zitto. Non ci sarà Arturo da Venezia. Bella visione. Bella visione. Tu devi stare zitto. Chi? Bella visione. Chi? Tu chi? Tu chi? Ma chi era questo qua? Arturo? Arturo o Stefano? Non ho capito chi era. Vabbè, uno dei tanti. Ah, pronto? Sì, chi è? Arturo. Dimmi Arturo. Allora, sono contento di quello che dici, perché ti do ragione al 100%. Tutte le cose che hai detto stasera sono giuste. Non capisco Parenzo dove sta attaccandosi, è giusto. Io sono stato licenziato 8 volte nella mia vita. Ho protestato, non ho mai fatto un casino. A Roma cosa andiamo a fare? Dimmi cosa... Parenzo, non sto difendendo il Fortuny, voi non avete capito nulla, perché avete giocato con le parole, ma va bene. Parenzo, c'è gente che ha capito. Cosa andiamo a fare a Roma? Ma io non sto difendendo i forconi, sto dicendo semplicemente che ormai c'è un livello di esasperazione tale per cui abolite la povertà, ma in realtà non si può abolire, c'è gente di disperazione, va bene, allora ho capito che c'è un livello alto, ma e cosa dobbiamo fare a Roma? Ma io mica ho detto di andare a lavoro. Ma io mica voglio andare a Roma. Ma chi ti deve dare il lavoro? No, perché tu dici deve manifestare. Uno che perde lavoro da due anni deve manifestare. Per andare dove? Con chi? A Palazzo Chigi? A differenza degli altri anni, la povertà si è talmente allargata. Noi protestiamo tranquillamente, senza fare tanti casini, senza danneggiare gli altri, sino perdere lavoro anche a altri. Non offendiamo nessuno, non vedremo i poliziotti, basta, fine. Non capisco tutti questi problemi, ma sta gente che c'ama, ma veramente Cruciani non li capisco. Guarda, ti do ragione al 100%. La zanzara è quell'odioso insetto. Monellacci. Ripeto ancora una volta, io sono dalla parte del sindaco di Londra Johnson, quando qualche giorno fa ha pronunciato una frase formidabile, una frase formidabile, pazzesca. Vabbè, ma gaffe per te che sei l'uomo del politicamente corretto, del tutto così scontato, banale. No, non sono l'avidità, l'avidità è un valore essenziale dell'attività economica. L'avidità è un valore essenziale dell'attività economica. Certo. L'ineguaglianza serve a scatenare lo spirito dell'invidia che promuove la crescita di un paese. Capito? Basta che il paese cresca. Ma no. Basta che ci siano opportunità. Però il politicamente corretto vuole che invece. Seconda cosa, quando dico che. Quando dico che si dica i poveri sono poveri. Quando dico che non si può eliminare la povertà, non voglio dire che non bisogna tendere a eliminare la povertà. Stai tranquillo. Nessuno vuole eliminare la povertà. Stai dicendo una stronzata. Perché dici stupidaggini, dici robe stupide. Nessuno ha mai detto che vuole abolire la povertà. Stare zitto. Passa dall'orecchio e sempre gira intorno a te. Ma per questo lo pagate voi? Purtroppo sì. La cosa fondamentale che ho detto, fondamentale per alcuni ovviamente, che ho detto, è che tutti i governi devono tendere all'eliminazione della povertà, questo mi pare evidente, cioè a ridurre il più possibile. Ma nelle società moderne occidentali esisterà sempre il barbone, il povero, il disperato, quello che perde lavoro. Si chiudono le aziende in tutto il mondo. Chiaro? No, ma chiaro questa cosa qua. È ovvio. Per cui andare a protestare per il lavoro è una cosa che non ha senso. Non ha senso, bisogna cercarselo il lavoro, sempre cercarselo. Non aggrapparsi al governo, a quello, bisogna incazzarsi perché contro gli sprechi di Stato, incazzarsi contro le regioni che sprecano un sacco di soldi, e incazzarsi per il debito pubblico e tante altre cose ancora. Incazzarsi, arrabbiarsi, fare del proprio meglio, ma la protesta fino all'occupazione delle strade. Dimmi cosa c'entra? L'occupazione, le manifestazioni illegali. Ma cosa c'entra? Tu difendi la Grecia, per esempio, le manifestazioni in Grecia, la gente disperata. In Grecia, la dopo gente, che la Grecia per anni, ma per certo, anni ma hanno è chiaro rubato che hanno lo delle colpe i greci te. E i governi hanno greci. Hanno rubato lo stipendio anche a te, gli ma statali è ovvio. Greci. Anche a te lo sappiamo. L'hanno rubato. Questo lo sappiamo, dopodiché che è successo? Che la gente a un certo punto che non ha mangiato più è andata in piazza. Questo è successo a un certo punto. È chiaro che hanno delle colpe. Ma che novità è? Ma è ovvio, ma è stra-evidente, Messie della Palisse questo. Però è un'iperbole divertente, a poveri affanculo. In Grecia... Detta così è chiaro che... Ma chi l'ha detto? Ma perché la dici così? Ma va bene, perché il gioco radiofonico va bene, ma se uno ragiona è diverso, no? Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che poveri non capire che oggi la protesta è molto più radicale di anni fa, vuol dire non capire cosa sta succedendo anche qua, purtroppo. Questo è. Sarà banale, ma è così. Cioè, vabbè. Davide da Torino, su, Davide da Torino. Chi se ne frega dei poveri, è più divertente. Ma io non ho detto questo. Ma sì, via, i poveri, chi se ne frega. Non hai lavoro, trovatelo. Non lo trovi, vaffanculo. È semplice trovatelo, così certo. È trova chi te lo deve dare, lo trovati Stato lavoro, qualcun dai, altro te lo deve dare, bisogna creare le condizioni, ma per creare attrarre capitali dall'estero, fare le riforme, inutile che fai tutta la lista no, ma è così. Delle robe, no? È così appunto, allora, è questo che bisogna che... per questo c'è bisogno di andare in piazza. Davide da Torino, dai, la piazza anche... non ha mai cambiato niente, dai, su, non diciamo cose ridicole, banali. Davide, vi voglio bene, lo so. Davide e Giuseppe, vi voglio bene, lo so, grazie. Davide da Torino. Sono Davide da Forlì comunque. Sì, Davide da Forlì, è uguale, dimmi. Giovanni, mi hai deluso profondamente. Io sono un assiduo ascoltatore della tua trasmissione. Cosa volevi che dicessi? Oddio, mi dispiace per tutti questi che perdono il lavoro, che stanno in piazza. Anche che poi bisogna che vedere se sono veramente quella gente che non ha lavoro. Dirlo non è che sminuisce. Ma la vergogna vera, lo sapete qual è? Mi dispiace per la gente che perde il lavoro. Sì. Quello lo fai tu a Radio Popolare. Dimmi. Beh, mi dispiace, ma io lo dico. Sì. Dillo a Radio Popolare. Ma non Radio Popolare, è una banalità. Onda Rossa. Tu ascolti da tante persone contro, o se ci credi veramente in quello che dici. Ma perché? Cosa sto dicendo di così strano? La gente che si sta che sta manifestando con i forconi o meno è gente normalissima. Sì, alcuni sì, certo, alcuni sì, altri no. Ma è normale che ci sono gli stronzi, come dici te. Ma va benissimo, la gente è una manifestazione, quando è autorizzata, anche se ha degli slogan generici contro lo Stato là, io non ne ho visto una per adesso, ho visto qualche propostina qua e là, qualche cosa, altrimenti sono delle cose, ammazziamoli tutti, in Parlamento sono dei ladri, dei buffoni. Siamo all'estremo tutti, ti sta parlando. Sono all'estremo tutti, sì, va benissimo, sono all'estremo. Tutti. Sì, bene. Dunque la soluzione qual è? L'altro, prima ho chiesto a uno che diceva le stesse cose che dici tu. Vogliamo fare una mezza guerra civile, vogliamo che... Allora, prima ho detto... esaltato a Roma qualche mese fa. Ma quale guerra civile? Ma smettila, Davide, qui solo Grillo crede alla guerra civile. Quale guerra civile? Dai, su. Snobbi questa cosa. Ma io non sto snobbando. Un po' a ridere. Non va bene. Io sto parlando come artigiano, libero imprenditore. Sì, benissimo. Di una piccola azienda. Certo. Che nel giro di 10 anni ha perso 6 persone su 12 che c'erano. Dramma, assoluto dramma, certo, dramma. Credimi che io lavoro. Assolutamente. Non solo per la mia famiglia, per i 6 dipendenti che ho rimasti. Assolutamente. Dunque? Sì, per me. Non mi pare che lei stia occupando una strada, no? Non mi pare che lei occupi una strada. No, sto occupando una strada perché anche a quest'ora sono dovuto andare a lavorare. Bravo, e si incazzerebbe se qualcuno occupasse una strada, bloccasse una strada e lei sta in mezzo, sì o no? Credimi certo. Che se non avessi questa fortuna di poter lavorare in questo momento, per poco tempo, ci sarei anch'io. Ah, bravo. Perché sono stato di essere preso in giro da questa classe politica. Da questa classe politica così in generale. Vuoi generalizzare tutto, generalizza. No, sei tu che generalizzi, mica io. Ma cosa ti devo dire? Io sono un elettore del capito, ma cosa chiedi? Cosa chiedi, Davide? Cosa chiedi? In sostanza. Il rinnovamento della classe politica. E vabbè, d'accordo, questa è una cosa un po' generica. La classe politica che si rinnova, vabbè. La moralità della classe sì, politica. Sì, ma che chiedi? Che ti paghino i soldi lo Stato? Lo Stato ti deve dei soldi? Io non voglio che lo Stato mi paghi, mi rimborsi niente. No, che ne so, magari hai dei crediti, magari hai dei crediti, quello è giustificato. Ma io ho dei debiti con lo Stato, che sta cercando di compensare piano piano vendendo anche un mio immobile. Sì, perché hai dei debiti? Perché hai dei debiti? Perché arrivare alla fine del mese con una crisi che ti sta lacerando, fai fatica a pagare tutti i tuoi conti. E allora molte volte devi fare delle scelte, non paghi alcuni contributi. Va bene, allora ma guarda, io sono con te perché il sistema fiscale italiano è una vergogna il sistema fiscale italiano. Non devi generalizzare e prendere, non dico in giro, perché tu non prendi in giro la gente, però fare del qualunquismo su queste persone. Ma l'avete sentiti questi qua in Sicilia, i capi dei Forconi, questi altri in giro per l'Italia? L'avete sentiti o non l'avete sentite le persone certo in giro? No, che è gente involuta, ma ovvio. C'è di tutto di più nella disperazione. Ecco, c'è di tutto di più. Certo. Davide, grazie. Ciao, ciao caro, ciao. Grande ritorno alla Zanzara, grandissimo ritorno alla Zanzara con Flavia Vento. Buonasera a tutti. Come andiamo? Benissimo, voi? Che succede? Bene. Che succede? Ti vuoi presentare alle elezioni? Che no. succede? No, vuoi fare un partito nuovo? Piccolo, che hai fatto? Nel mio piccolo voglio fare il mio movimento. Ancora? Sì. Come si chiama? Fili dei fiori. Ancora? Mille fiori. Sì. C'era bisogno però effettivamente. Ma senti tifosa, senti Flavia dietro, quindi no, è da sola farlo, già i tesseramenti e tutto è una cosa abbastanza difficile, però non c'è dubbio. Ma i forconi non ti attirano i forconi? Cosa sono? Tu non sai cosa sono i forconi? No. Non sai che cos'è il movimento dei forconi in questo momento? No, che sono? I forconi, quelli che stanno in giro per l'Italia, in piazza, eccetera. Non lo sai? No, no. Queste cose in giro. Tutto ciò è Parenzo, tutto c'è, credo che fanno bene visto che l'Italia oramai è tutto ciò è meraviglioso. Niente, lì al Castello c'è prime pagine, ma non di giornali, diciamo, anche di siti, ma anche accedere una televisione al Castello, ma il Castello radio è un'altra vita, sai, un altro pianeta, è un'altra dimensione, il Castello di Flavia Vento che non sa cosa sono i forconi. Ma adesso siamo emigrati nella grotta. Dai Flavia, ma tu vuoi fare un partito politico, non sai manco quello che sta succedendo con i forconi in queste ore, amica mia, io ti abbraccio. Vabbè, non ci vuole una scienza per capirlo, No, beh, insomma, adesso non ci vuole una scienza per capirlo. Noi stiamo litigando da 3 giorni sui forconi, adesso mi viene a dire che non ci vuole una scienza per capirlo. Beh, ma io avevo già predetto che c'era la rivoluzione francese in Italia, cioè quella che c'è la rivoluzione stata nel francese 1800, in Italia, in Francia, adesso c'è in Italia. Nel 1000, scusi? 1000? 1878. Forse un po' prima, però poco male. Ma tu lo sai che a un certo punto ha fatto i complimenti a Renzi, ha detto per la vittoria alle primarie Premier, che cos'è che hai detto? È diventato Premier Renzi. Dai, sì. Flavia, su. No, ragazzi, su. Allora, io sono talmente avanti che io ho detto che lui vincerà e diventerà Premier. Avevo premesso un anno fa, hai scritto che Matteo che Renzi sarebbe diventato Premier. Allora, tra un anno ci vogliamo risentire che diventa Premier. Ma tu hai detto sarebbe diventato, cioè sarebbe diventato, è già diventato Premier. No, io ho già predetto che lui sarà Premier, non con le primarie, perché già avevo capito che vincere le primarie, che sono una cosa insomma scema. Ah, io già vedo oltre, quindi so che lui diventerà Premier. Certo. Ci scommettiamo quanto volete. Ma ti piace adesso Renzi? A me mi piace perché, come il mio movimento si batte sull'ecologia, so sull'ecologia che lui tiene molto all'ecologia. Ma quale movimento, scusa? Sempre i Fili dei Fiori? Il mio movimento spero che a breve ci sarà. Poi quando vinco mi chiamerete tra un paio di anni. Lorenzo, per favore, rispondi tu. Ti prego, rispondi. Voglio capire dov'è la cosa, c'è nella grotta dove adesso Fili dei Fiori. Stiamo lavorando questo per voi. Stiamo lavorando per voi. Allora, siccome nel frattempo tritone, ti ho visto, il tritone si è rotto le palle di stare nel castello e quindi è andato nella grotta il tritone, a Verde il tritone. Ma tu sei andato alle primarie a votare? Sì, ho votato Renzi. Ah, sei andata alle prime, al seggio ti hanno accettato, ti hanno visto in faccia e ti hanno accettato, sì. Beh, scusa, io sono in democrazia perché non mi devono accettare. E che ne so, magari pensavano uno scherzo. È uno scherzo. No. Cioè, hanno riconosciuto. La guardiana del castello dov'è? La guardiana c'è sempre, però adesso insomma si è tramutata in una sirena, perché ci siamo trasferiti dal castello, siamo andati nella grotta. Nella grotta, e come mai? Perché nella grotta? Scusa. Degli acci, a fare le cose. Perché siamo tornati nell'isola, quella che non c'è, dove tutti vogliono stare in questo momento, credo. Ma mi hanno detto che ti sei innamorata di Siani. Ma va. Che ti piace moltissimo. Allora, diciamo la situazione, diciamo le cose come stanno. Sei tornata a fare un po' di sesso o no? No. No, dai, ma non è vero, ogni volta, dai, su, cioè... Ma che te frega a te, scusa? Ma mi frega, io sono interessato a queste cose, cioè alle... Perché? Alla tua vita sessuale sono interessato, alle persone che attraversano momenti complicati, difficili, in cui non fanno sesso per un po', poi sono, voglio sapere come mai, perché, se ricominciano. Senti quel che dici. Ma non credo che fare sesso dia una svolta nella vita. Beh, come no, anche, dai, su, come... No, no, bisogna sposarsi, a me di fare sesso, già te l'ho detto un'altra volta, non me ne frega niente. Non te ne frega più niente ormai. No, non te ne frega più nulla. Vuoi trovare l'angelo? Perché dici che mi sono innamorato di Siani? L'hai scritto tu, mi sembra, da qualche parte, che ti piace uno che si chiama Siani, no? Ti piace, ho detto innamorato, ti piace. Ah, mi seguite proprio su Twitter, ammazza. Beh, sì, sono... un po' di cazzate le seguiamo pure. Non e Mandela, che diciamo, signora Vento, su Mandela? Ecco, allora, stendiamo un velo pietoso su Mandela, perché veramente mi fermano per strada. In che senso ti fermano per strada? Io so benissimo chi è Nelson Mandela. Te ti fermano per strada per rimorchiarti, non per Mandela. No, per chiederti un parere su Mandela, però. Per questo fake che è uscito, che io dicevo ti ricorderò sempre in una settimana da Dio, non esiste. Ah sì, perché l'hai scambiato con l'attore, la Morgan. No, io non l'ho mai scambiato con l'attore. Con Morgan Friedman. Mai. Sì, Friedman, sai, non sono così deficiente. Come Alan Friedman. Peggio Parenzo di te, forse, che alla fine dice Friedman invece di Freeman. Friedman, no, però forse Alan questa Friedman. Cosa, ti posso dire una cosa bella? Sì, forse dimmi. Questa cosa che è successa si riaggrappa al mio mondo, nel senso che io sono per la pace. Per la pace, sì, certo. Bianchi-neri. Più o meno la pace, cioè, la pace e bianchi-neri siamo d'accordo tutti, la pace e bianchi-neri. Ma c'è stata, grazie a Mandela. C'è stata, però, per la pace e bianchi-neri. Vabbè, comunque, un attimo solo, Lores da Vicenza, Lores. No, dimmi Lores. Buonasera. Dimmi. Allora, spero di non deluderla. Ho un ritorno di voce, è tremendo. Oh, ma questa è la mitica Lores. Che hai da dirmi, Lores, stavolta? La mitica. Allora, potete tirar via... Chi? Il ritorno di voce. Ma noi non tiriamo via nulla, perché non abbiamo nulla da tirar via. Sei tu che hai un ritorno di voce strano. Beh, dimmi veloce, dai. Allora, spero di non essere banale. Vai. Adesso che abbiamo sentito l'Ariosto che si ravvede contro Berlusconi, sì, che ci tiene a avere le sinapsi pronte, allora? Che si mantiene tonica, sì. Poi questa decerebrata che non sa cosa sta succedendo, poi Berlusconi che, come diciamo noi in Veneto, sì, quando il corpo si frusta l'anima si è giusta, per 30 anni forza fica, adesso forza Dudu, sì, basta. Spero di non essere stata banale. No e la saluto, un abbraccio, buonanotte. Bento, ti ha dato dalla decerebrata la signora Lores. No, vabbè, con affetto. Mamma mia, antico una cosa vecchia, con affetto, antico dai, su. Antico, vabbè. Io credo che in questo momento in Italia il cervello tra i politici non ce l'hanno. Non ce l'hanno, questa... più io che loro, dici? Sì. Ma che cosa vorresti fare per Renzi? Ti offrisse di fare, che ne so, la responsabile io non faccio niente del castello. Per nessuno. Non faccio niente per nessuno. Non fai ripeto. Niente per nessuno, solo per te stessa? No. Faccio qualcosa per gli animali, te l'ho detto. Per gli animali. Allora, Berlusconi ti piace con Dudu? Come si comporta con Dudu, signor Berlusconi? Beh, ma Dudu è già un cane di razza. A me non piacciono i cani di razza. Manco questo ti piace di Berlusconi. I cani per strada, quindi Dudu è un barboncino. È un barboncino, è privilegiato. Vabbè. Sì. Ti abbraccio, ti do un bacio. Ciao. Quello che ti devo dire, ti ho detto, come dice Pannella, non capisci un cazzo. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Lei lo conosce, Dudu? Sì. Sono un buon amico di Dudu, come tutti quanti cani, è pieno di qualità.